Benvenuti alla rubrica Manfro fa cose, Manfro gira, Manfro spiega i luoghi dove gira, gira, spiega, chi lo sa. Parleremo un attimo in questa rubrica di interviste in cui mi diverto a fare nei peggio bar di Reggio Emilia. Infatti fra un po' sentiremo l'intervista fatta nel locale Il Lonfo, nel quartiere meraviglioso della Rosta, in quel di Reggio. Parleremo di attività musicali in quel di Milano, parleremo di attività di vita nel quartiere Beniamacla di Valencia e parleremo di uno spot in cui adesso non ho voglia di dirlo perché lo sponsor che mi sta guardando in questo momento mi ha detto di non dirlo perché vi costringerò a rimanere su queste frequenze. Benvenuti a Manfredi fa cose. Ringrazio Eiki per l'opportunità. Ciao Stefano, grazie per avermi passato la palla. E, ecco, questo è Ale. E Ale sono io. E cosa sono io però? Sono un batterista, mi sono detto all'inizio sono un batterista, ho suonato per un bel po' di tempo la batteria, fino a che a un certo punto non ci ho cantato suonando la batteria e quindi mi sono detto sono un batterista cantante. E quello mi è andato bene per un po' di tempo, finché non è successo che non potendo suonare la batteria quando ero piccolino, e nel mio povero appartamento di Taranto in Puglia c'era il mio vicino di casa che batteva insieme a me a tempo di batteria, però non per fare concerto con me ma per dirmi di smettere, ho capito che forse era meglio cominciare a suonare anche la chitarra, che almeno mi permetteva di non pecchiare nessuna pelle e di non danneggiare l'acustica dell'intero stabile. E quindi da quel momento ho iniziato anche un po' a suonare la chitarra, un po' a cantare. E a un certo punto nella mia vita, dopo aver fatto comunque un po' tutte e tre le cose che vi ho elencato un po' saltuariamente, ma con più la batteria di mezzo, a un certo punto è successo che nel comporre delle canzoni con la chitarra una mi ha fatto dire in terza persona a me stesso, giudice, giuria e boia di ogni cosa che faccio, mi ha fatto pensare: caspita, questa canzone è bella, c'è un componimento che io, batterista, mi ero permesso di fare scrivendo in italiano e suonando la chitarra, quindi tutte cose proibite per la mia testa, alla mia testa era piaciuto. Quindi da quel momento ho detto: perché non provo a farne altri? E questo è stato il momento in cui era nata Tulipani Girasoli, cioè il mio primo singolo rilasciato su Spotify. È stato molto strano da parte mia ascoltarmi e piacermi, ma tant'è. E tanto è successo che questa cosa mi ha fatto piacere che ho creduto che fosse necessario far uscire quei pensieri da me, far uscire quelle canzoni un po' più indie, un po' più pop, un po' più intime, dalla dimensione di me e dalla dimensione della mia cameretta. Infatti il progetto Tutto questo reale nasce come in realtà un qualcosa per unire quello che sono veramente io a quello che voglio mostrare su un palco, perché alla fine le canzoni che ho scritto sono le riflessioni di un ragazzetto che è in camera con la sua chitarrina, nella sua intimità, a scrivere il diario segreto di Hello Kitty, come lo chiamo io, e scriverci tutti i suoi pensieri, le sue sventure, le sue avventure amorose, i suoi cuori rotti o le idee che, come posso dire, innamorarsi di principesse che neanche esistono o di ideali che neanche esistono, e nel frattempo rimestarli così tanto da farli uscire sotto forma di parole in italiano sopra degli accordi. E quindi è questo. Ho voluto finalmente avere il coraggio di proporre qualcosa sia per me stesso, quindi per avere il coraggio di andare oltre me stesso, sia per insomma voler far vedere questo mondo che esisteva solo in cameretta e volerlo portare sul palco in modo tale da magari cercare di mettere qualcuno nei miei scomodissimi panni. E spero sempre che in quello che scrivo ci si possa ritrovare nei ragionamenti che porto. E soprattutto mi piace molto che la mia storia sia utile per chi magari come me non crede di poter essere all'altezza di fare musica, non crede di poter rilasciare qualche pezzo, pensa che tutto quello che scrive alla fine siano solo delle cavolate, che sia inutile e sia inutile buttarle ad un pubblico a cui sicuramente non piaceranno. Spoiler, non è vero, piacciono meno a te stesso di quanto possano piacere a qualcun altro alcune volte, e questa cosa l'ho capita nel modo più duro, cioè facendole ascoltare in giro. E quindi questo è quello che è successo, questo è Ale. Dal momento in cui non c'entra niente, ma ho appena scoperto che il 25 giugno al Fabric di Milano suoneranno i Garbage, band rock pop scozzese, una delle mie band preferite della mia infanzia, e non posso non mettere questo pezzo del 2005 dall'album Bleed Like Me, di questa canzone chiamata Why Do You Love Me, cantata dalla meravigliosa Shirley Manson. ringrazio tantissimo Stefano per avermi invitato, perché poi la cosa più strana della conoscenza con quest'uomo è proprio il fatto che ci siamo conosciuti tramite un amico, e tramite questo amico che si chiama Samuele. E il punto è che lui e Samuele si sono conosciuti all'ACR, e io faccio parte del clan nemico, cioè quello degli scout. Ma adesso questa cosa è una guerra che noi combatteremo in privato, perché io comunque la combatteremo adesso, perché lui non poteva sapere che io ero scout, perché ero scout quando abitavo a Taranto, perché come ho già detto prima io provengo dalla Puglia, e poi denaturalizzato da lì mi sono spostato a Modena. E una delle più grandi, delle più grandi difficoltà della mia vita è stata proprio prima di vedere il mondo all'esterno di me, ho dovuto vedere il mondo all'esterno del posto in cui vivevo. E dunque avere due città che mi hanno fatto da casa è stato anche un grande spartiacque nella mia testa per cercare di capire e mettere, come posso dire, in prospettiva tutto ciò che penso e tutto ciò che sono. Per Dio, salire su al nord magico, dove di solito piove sempre e dove non c'è il sole e dove la gente non offre per forza il compleanno, indubbiamente mi ha fatto mettere in prospettiva il fatto che la realtà che conoscevo non fosse l'unica esistente. E dunque il mio rapporto con l'essermi spostato è stato sano per, tra molte virgolette, permettermi di avere un punto di vista più onnicomprensivo sulla vita e sulle abitudini. E nell'abitare tanto al nord, tanto a Modena, ho capito cosa mi piace di Modena e cosa non mi piace di Taranto. Cosa mi piace di Modena è che non l'ho ancora capito davvero, ma mi piace abbastanza da essere la città nella quale al momento io voglio abitare. E Taranto è quella che non andrà mai via dal mio cuoricino, perché ci sono nato e perché ogni volta che ci torno c'è qualcosa che cambia in meglio, o comunque, diciamo, mi riempie comunque il cuore sempre di più, che sentire qualcosa che cambia magari nella seconda città in cui sono stato. È un po' un concetto complicato, ma cerco di portare questa dicotomia e questa guerra fra i due mondi anche in quello che scrivo, perché alla fine cambiare città è un po' come cambiare idea, è complicato, ma se non lo fai non sai davvero qual è l'idea migliore. Quindi ciao e grazie mille a tutti. Dal momento in cui, in questa giornata piovosa, mi sono ricordato che per lavoro dovrò andare a Valencia la prima di luglio, ecco a voi la canzone brillante del gruppo rock pop femminile Repion. Cambiar. Hai voglia di un momento di pura felicità? A Bella Reggia Marina c'è un posto dove il gusto diventa magia. Gelateria Banana. Ogni giorno prepariamo gelati artigianali con ingredienti freschi e selezionati, dalle creme più golose alla frutta più rinfrescante. E per i più curiosi, gusti originali tutti da scoprire. Cono, coppetta, granito o frappè. Da Gelateria Banana c'è sempre qualcosa che ti farà sorridere. Vieni a trovarci e lasciati conquistare dal sapore dell'estate. Gelateria Banana. Il gusto che ti fa tornare. Legato allo spot della gelateria Banana situata in quel di Bella Reggia Marina, mi è venuto in mente quando è stata l'ultima volta che ho sentito un concerto in Romagna. E mi è venuto appunto in mente che era stato ed è stato il concerto di Paul Kalkbrenner allo Space di Riccione lo scorso agosto. E proprio per questo lo ascoltiamo con una delle mie canzoni preferite dal titolo Invisible. Prima di chiudere, ci tenevo a condividere in poche parole come sono arrivato fin qui e soprattutto a salutare Eki, perché sì, tutto parte proprio da lì. Eki è stata anche la mia docente nel corso base di speaker radiofonico, sempre presso Radio Città Fujiko, a cui ho partecipato 3 anni fa. Da quell'esperienza è iniziato il mio percorso in radio, fatto di curiosità, tentativi, voglia di raccontare e di raccontarmi. Un percorso che passo dopo passo mi ha portato fin qui, fino alla possibilità che mi sono anche andato un po' a cercare, lo ammetto, in una serata frizzante di giugno, di proporre e ottenere uno spazio tutto mio all'interno di Radio Città Fujiko stessa. Così è nata Musica Laterale, un appuntamento di mezz'ora ogni martedì pomeriggio. in cui ogni settimana esploriamo una città o una provincia diversa. Un viaggio, insomma, tra realtà di calcio popolare e scene musicali indie e underground, tra festival, rassegne e storie che vivono davvero il territorio, lontano dai riflettori principali, ma ricchissime di energia e autenticità. Ricordo che sulla pagina Instagram di Musica Laterale troverete il crowdfunding lanciato su Produzioni dal Basso per portare e sviluppare questo progetto quest'estate direttamente nelle realtà e scovarle del centro e sud Italia. Quindi grazie a chi ascolta, a chi supporta e a chi rende possibile tutto questo. E adesso passo di nuovo il microfono a Eki. Ciao, fata modo! Grazie Manfro, grazie per questa puntata, per questo tuo contributo e per tutti i contenuti che ci hai regalato in questo momento di dedicato. Oggi era la seconda puntata dei nostri ragazzi del corso avanzato di Voice on Air. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre mercoledì alle 13 su Radio Città Fugico, con la terza puntata con la Cri, che è la nostra fanciulla, appunto, del corso avanzato di Voice on Air e sarà anche l'ultima puntata con i format dei ragazzi. Quindi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù.